Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con le notizie dal mondo della logistica e dei trasporti. Da settimane, come i nostri ascoltatori più attenti sanno, in questo programma affrontiamo l'emergenza coronavirus, ma se fino a lunedì ci siamo occupati degli impatti sul traffico di merci a livello mondiale, ora l'emergenza riguarda direttamente il nostro paese, la nostra quotidianità, e d'altronde gli ultimi aggiornamenti li abbiamo appena sentiti in effetto giorno. Cosa succede? Cosa sta succedendo per la logistica e il mondo dell'autotrasporto? Lo chiediamo a Claudio Fraconti dell'Associazione Provinciale di Milano, Lodi, Monza, Brianza e Pavia di FAI. Fraconti in linea con noi, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, è una situazione chiaramente in evoluzione, ma di certo per la logistica un'emergenza nell'emergenza, potremmo dire. Dunque, io già da venerdì ho avuto le prime notizie, sia personalmente con la nostra azienda che con i colleghi, di sospensione di servizi nella zona interessata, quella del Lodigiano. È chiaro che questa qui è una zona centrale per la logistica lombarda, Lodi, Piacenza, Pavia, sul Milano. È chiaro che l'interruzione di attività lavorative piuttosto che di mobilità delle persone in un'area del genere sicuramente produrrà dei problemi alle aziende di produzione, ma anche al rifornimento dei supermercati piuttosto che di tutte le attività. Insomma, e qui purtroppo sta uscendo la debolezza di una logistica just in time e della produzione spostata negli anni all'estero, e di tutte le problematiche stanno uscendo in un colpo solo. Anche perché è un'emergenza che non ha precedenti ai quali fare riferimento per poterla gestire, Fraconti. Esatto, qui siamo sicuramente impreparati in un'occasione così, diciamo, forte. Diciamo che l'esasperazione della logistica di questi anni, voglio dire l'e-commerce eccetera, già dava i primi segnali di sofferenza nel rapporto con, soprattutto con la città di Milano, con l'ambiente eccetera eccetera. Adesso ne vediamo poi delle conseguenze sotto un aspetto invece un po' più drammatico, insomma. Claudio Fraconti, Associazione Provinciale di Milano, Lodi, Monza, Brianza e Pavia di FAI, grazie per essere intervenuto ad Hashtag Autotrasporti e buona giornata. Arrivederci, grazie. Altro tema caldo resta il Brennero con i divieti per i mezzi pesanti. Dopo che 10 giorni fa il tentativo di mediazione della commissaria europea ai trasporti Valean è fallito, resta una situazione di stallo. Il Tirolo e quindi l'Austria non intendono retrocedere dalla posizione, anzi annunciano di essere pronti, qualora fosse necessario, ad inasprire le limitazioni. Le associazioni del nostro autotrasporto chiedono iniziative concrete da parte della Commissione europea. Per Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e vicepresidente di UETR, l'Unione Europea degli Autotrasportatori, è necessario che a Bruxelles si passi dalle parole ai fatti, facendo rispettare le regole per non essere sotto scacco del governo del Tirolo. Sulla stessa posizione Conftrasporto, che ha annunciato una conferenza stampa venerdì a Verona. Ora in Liguria, ricorderete, lo scorso autunno la regione fu investita da una serie di nubifragi, in particolare il 24 novembre una frana investì l'autostrada A6, la Savona-Torino, provocando il crollo del viadotto Madonna del Monte nel tratto tra Savona e Altare in direzione nord. In poco meno di 3 mesi il ponte è stato ricostruito. Venerdì l'inaugurazione, con la ministra Paola De Micheli, che a margine della cerimonia ha parlato della sicurezza delle nostre infrastrutture stradali. La ascoltiamo. Noi sappiamo perfettamente che cosa vuol dire viaggiare tutti i giorni sulle autostrade, dover pagare dei pedaggi, avere la preoccupazione della sicurezza, e quindi è di questo che ci stiamo occupando e non di altro. Lo dico anche per rassicurare i cittadini liguri, tutti i cantieri di straordinaria e ordinaria amministrazione previsti, certificati e validati dal Ministero sono tutti aperti. Tutti aperti, quindi non c'è nessuna sospensione delle attività, ma c'è anzi, contrariamente, un'intensificazione delle attività anche in questa fase. La Procura della Repubblica di Avellino ha accolto l'istanza di Autostrade per l'Italia relativa al dissequestro delle barriere di sicurezza a bordo ponte installate su 8 viadotti della 16 e su uno della 14. Lo rende noto la società, sottolineando che il dissequestro temporaneo consente di procedere con i lavori di cantierizzazione necessari per la sostituzione delle barriere di sicurezza. Rimaniamo a parlare di viadotti, ci spostiamo però in Sicilia. Entro maggio sarà percorribile il nuovo viadotto Himera sulla Palermo-Catania, parzialmente crollato 5 anni fa. Lo ha annunciato ANAS, smentendo una serie di notizie secondo le quali i lavori procederebbero a rilento. Ma al di là del viadotto Himera, la rete stradale dell'isola sconta ritardi cronici, le infrastrutture sono inadeguate rispetto alle esigenze della mobilità e della logistica. Per un tratto sempre dell'A19 da tempo, i mezzi pesanti non possono circolare con un aggravio di tempi e di costi. CNA Fita ha quantificato le conseguenze di questi disagi. Siamo collegati con Giovanni Brancati, che è il coordinatore di CNA Fita Sicilia. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per la chiamata. Allora, come dicevo, avete per così dire monetizzato le conseguenze di questa interruzione. La Sicilia, per quanto riguarda l'autotrasporto, è in questo momento divisa in due, in una direzione che è quella da Palermo verso Catania, mentre da Catania verso Palermo la situazione è, fra virgolette, regolare. È stato chiuso un tratto di una trentina di chilometri di autostrada. Questo comporta che a livello di alternativa l'ANAS ha segnalato delle strade statali, diciamo quasi di montagna, che portano a dover diminuire fortemente la velocità. Abbiamo calcolato, sulla base di numeri ufficiali forniti dall'ANAS, dallo svincolo di Resuttano, appunto dove c'è questo blocco, passano circa 700 mezzi al giorno, solo in una direttrice, quindi da Palermo verso Catania. Abbiamo fatto un calcolo che, sulla base della diminuita velocità, del fatto di dover quindi impiegare possibilmente il doppio autista, comporta da una parte un aggravio di costi da 1.000 a 1.500 euro per automezzo, che naturalmente moltiplicato per i 700 mezzi al giorno e quindi circa 21.000 al mese comportano un aggravio di costi che va in un range che è da 14 a 20 milioni al mese. Abbiamo chiesto che nei confronti delle imprese venga riconosciuto, così come è avvenuto per esempio molto più eclatante, dove è stato giusto che avvenisse, parliamoci chiaro, tipo Genova, che venga riconosciuto un ristoro nei confronti delle imprese. Da tempo poi la vostra organizzazione denuncia l'ombra delle infiltrazioni della criminalità nel settore. In particolare, voi avete denunciato, la presenza si manifesterebbe con la volontà di controllare il mercato grazie a tariffe assolutamente impraticabili da parte di un vettore che invece deve far quadrare i conti, Brancati. Il mercato a mano viene accentrato da un numero diciamo esiguo di grosse imprese che operano in Sicilia, le quali riescono in un modo o nell'altro addirittura ad abbattere i costi anche sulle tratte lunghe sud, nord e viceversa anche più del 50%, ed è una cosa che effettivamente, se bisogna considerare tutti i costi che ci sono sia via terra sia via mare, anche pensando che naturalmente si tratta di imprese strutturate, quindi riescono ad economizzare su tutta una serie di aspetti, eccetera, eccetera, in ogni caso diventa molto difficile riuscirsi a spiegare come è possibile dimezzare il costo di un trasporto. Giovanni Brancati, CNA Fita Sicilia, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Torniamo in Liguria a proposito del sostegno per gli autotrasportatori penalizzati dal crollo del ponte Morandi, del quale parlava prima Brancati. Sono scattate le procedure relative agli indennizzi per i maggiori costi sostenuti nel 2019. Il governo ha stanziato complessivamente 80 milioni, la stessa cifra è prevista anche per il 2020. Dalla scorsa settimana l'autorità di sistema portuale di Genova raccoglie attraverso la piattaforma Wirnet le richieste di risarcimento che potranno essere presentate fino al 24 maggio. maggio. Come è successo per i veicoli industriali, anche per il mercato di quelli commerciali il 2020 inizia in terreno negativo, confermando il segno meno registrato a novembre e dicembre. Sono state immatricolate 13.223 unità, con una flessione del 2,3% rispetto a gennaio 2019. La stima è di un RAI. Termina qui hashtag autotrasporti. Vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda alle 13.15 con Container, un approfondimento su questi temi. Con questo programma ci risentiamo lunedì alle 13.45. Ora il GR, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.